Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. La chirurgia robotica, che a lungo è stata dominata da un solo sistema, nato soprattutto per la chirurgia generale, è contrassegnata nei suoi sviluppi più recenti dalla comparsa di robot chirurgici estremamente specializzati, che nascono quindi per assistere il chirurgo in un set molto limitato di interventi, per i quali tuttavia questi robot sono stati concepiti e disegnati ad hoc. Due di questi saranno protagonisti della puntata di Smart City di questa sera e di domani sera. Il primo si chiama Mesor Renaissance, ne parliamo con Giovanni Broggi, primario emerito di neurochirurgia all'Istituto Besta, consulente dell'Istituto Città Studi e responsabile della chirurgia robotica spinale del Columbus Clinical Center, che ha appunto recentemente anche adottato proprio questo robot. Buonasera Broggi. Buonasera. Dunque parliamo di un robot, per la precisione si tratta di un COBO, quindi un robot collaborativo specifico per interventi sulla colonna vertebrale. Partiamo da qui, di che tipo di interventi parliamo e a che scopo vengono eseguiti generalmente? Si tratta di più di un tipo di interventi molto simili, sono interventi sulla colonna vertebrale, sulla parte ossea della colonna vertebrale per malattie degenerative neurologiche, cioè instabilità vertebrale, per lesioni traumatiche della colonna e quindi necessità di stabilizzazione, e per malattie tumorali della colonna vertebrale. E in cosa consiste l'intervento? Voi mettete delle viti, insomma, che cosa fate? Allora, normalmente si procede in questi termini. Dopo uno studio accurato con la risonanza magnetica, si fa una pianificazione clinica che dipende dall'esperienza del chirurgo per mettere delle viti cosiddette interpeduncolari, cioè all'interno del peduncolo di ciascuna vertebra. Quando sono messe, minimo sono 4 viti, cioè un livello, oppure più livello, come nella scogliosi, per esempio possono essere anche 7-8 livelli, si pongono delle barre che bloccano queste tra loro le vertebre, sostanzialmente, utilizzando queste viti. Rendono una situazione instabile in una situazione stabile. Ecco, a questo punto qual è l'aspetto più complicato di questo tipo di operazioni? Le chiedo in che modo il robot aiuta a compiere un intervento chirurgico di maggior successo? Il punto più delicato di questo tipo di operazione, al di là della indicazione clinica, è il fatto di mettere le viti in maniera tale che non tocchino le radici nervose che vanno poi a comporre i nervi e soprattutto è il sacco dorsale che contiene il midollo spinale. Bassa, nella parte bassa contiene solo le radici e più in alto invece contiene il midollo spinale. Vero. Quindi insomma il problema è che bisogna lavorare sulle ossa ma avere assoluta attenzione a non interferire con la parte di sistema nervoso vero e proprio, che però è lì dentro. Esattamente. È lì dentro. Esattamente. Ecco, in che modo il robot aiuta a fare proprio questo? Il robot ci permette di fare una pianificazione prima dell'intervento sulle immagini TAC e risonanza magnetica del singolo malato, quindi non in una condizione ideale, ma in una condizione reale del malato. Cioè voi ricostruite un modello tridimensionale esatto della colonna vertebrale del malato, no? Da queste immagini. Della parte certo, di interesse, cioè certo, la parte ammalata della colonna vertebrale. Dopodiché si possono studiare le traiettorie di inserimento di queste viti, modificandole di momento in momento a seconda delle condizioni anatomiche, scegliere non solo la traiettoria, scegliere la lunghezza, cioè il tipo di viti che deve, certo, essere messo. Quanto deve essere lungo, quanto deve essere inclinato, quanto deve entrare. Esattamente questo, evitando ogni possibile contatto con le strutture nervose. Ecco, e a questo punto diciamo, questa è una parte di pianificazione, parte, giusto? Quando si va nella parte operatoria, il robot ci permette di usare molto meno tempo l'esposizione ai raggi, perché normalmente se non si usa il robot bisogna usare la fluoroscopia. Quindi il malato prende molti raggi. Diciamo, è come se operaste con una radiografia costante proprio per vedere dove vanno a finire esattamente queste viti mentre le state piazzando, no? Esatto. Questo è il problema. Una per una. Invece con l'assistenza del robot la pianificazione è perfetta e quindi i tempi di esposizione sono minimi, praticamente zero, e la precisione con cui vengono messe queste protesi, queste viti, che possono essere messe per via percutanea oppure per via aperta, a seconda delle indicazioni. Dei casi. Ecco, ma questo robot viene, diciamo così, fissato alla colonna vertebrale durante l'operazione e poi fornisce una sorta di guida, per cui, se ho capito bene, il chirurgo, per esempio, quando fa il buco col trapano, perché di questo stiamo parlando, avrà una guida e farà il buco esattamente con l'inclinazione giusta, esattamente con la profondità giusta, essendo sicuro di non toccare il sistema nervoso centrale. Un aiuto molto pratico, diciamo. È un aiuto estremamente importante nella fase operatoria, perché il robot ci permette di mettere le guide e quindi di fare tutte le nostre manovre chirurgiche con il trapano, con le viti, eccetera, eccetera, in assoluta certezza e sicurezza. Grazie. Allora, Giovanni Broggi. Grazie, arrivederci. Anche per questa sera è tutto, appuntamento a domani per parlare di un altro di questi nuovi robot chirurgici. Marco, buona serata.